con la carrozzina, ne toglie, c'è la pedana, la toglie, la fa andare sopra, da al centro, e poi la rimette a posto e va, col tram si può fare. Ti stavo dicendo, Anzu, guarda, l'ho chiamato, mi ha chiamato Marcellino, ma volevo dire la pizza a Spontanini. No, ho chiamato un altro che non mi rispondeva. Ma chi, Marcellino ti rispondeva? No. Dopo lavoro, sta sopra lavorando Marcellino. Allora, Antonato. Sì, riprende il tempo che sto bevendo. Vai Antonio. E anch'io sto bevendo, guarda, c'è una bella purezza, avanti Antonio. Buona, Aspetta che scado la pizza a Cosma, la pizza mette a me. Il tosta, Simo la levo subito, no, ci mette 3 minuti dalla tostiera, quella verticale. Così faccio la cena anche a lei e a posto. Poi domani me ne vado in giro se tutto va bene, se non scende qualche cosa da sopra. Faccio un giro, mi faccio con Simona, almeno faccio camminare un po'. Se no guai. Poi mercoledì c'è da fare quella cosa, così il vaccino, come si chiama deve fare? Lo spy, ma come cazzo si chiama? Pfizer! Deve fare Pfizer, hai capito? O quello o l'altro. Non vi fanno nuova stagione. O Pfizer o Moderna. Antonio, dove fate? A Campiaggio oppure giù a Pedonieta? A Pedonieta devo scendere, mi accompagna in macchina un'amica, mi accompagna, insieme a Simona. Ti pago la benzina, rimane un po' con noi, il tanto di quanto sono, di aspettare il turno suo, poi ci lo sai, deve rimanere 15 minuti senza una sedia, nel caso ci sia qualche problema. Ok, avanti anche tu. Ricappa, allora organizziamo andare al mare. Se tu vuoi, guarda, stavo c'è Antonio, con la musica della messa con canso, vuole ballata con nudo, se no va bene, capito? Ora balliamo pure a piccheriola fuori. Avanti anche tu. Kappa kappa. Ebbene, non facciare di più, sud, nord Italia. Cazzo, è okay, arruiazzando è la cosa. Guarda, se giri di canali, Antonio, sono tutti tedeschi, inglesi, americani, tutta la razza, beh. Non è un casino, ti dà nessuno dei canali, no? Non sento più nessuno, guarda, non è un casino. Avanti, Antonio, se sono stato e devo cucinare qualcosa, no? Bene, Marco, se è lontano 2 minuti, non so se vediamo se è entrato, Marco? Sì, guarda, nel pomeriggio era allucinante, anche a Madre Laterale, canali alti, era peggio di adesso, era una cozzaglia di segnali, sia italiani sia esteri, solo che c'era così casino che praticamente non riuscivi a... Io l'unico che mi ha sentito con 30 watt solo in banda laterale è un olandese, ma questo perché? Perché c'è il canale vuoto. Io ho provato a fischiare, questo ha risposto, Olanda, e mi ha sentito, e non gli ho manco risposto perché non ne avevo voglia, volevo solo ascoltare. E ok, io quella notte c'era uno di Francia in macchina, che parlava anche italiano, ma quella notte, quasi una mezz'oretta modulando stavo insieme a lui. Ho acceso poc'anzi, che ho terminato il lavoro, di fare questo lavoro, sto facendo a casa, ho acceso, ho girato sui 23, c'era l'attore, c'era la gente, ma non ti dico bene, non sentivo nessuno, ho preso che ho cambiato, ho girato, perché non ascoltavo neanche l'attore, da quando arrivavo un po' via, 9:15, 9:20, vabbè io sono all'aperto, qui in campagna l'attore comunque, prendo tutto, avanti, vai. E vediamo se è rientrato Antonello. Antonio sta accendendo la piazza, forse per un tosti, non lo so, vediamo Antonio. Antonio, torni al video. Anto. Sono rientrato. Ma la stanno facendo il tramezzino al tosti? Quei tramezzini, fatto a tosto però, visti quei tramezzini lunghi. Per piedi che ci mette la roba dentro. Poi li faccio in contorno, li metto nel piatto, funghi, cipolline, una roba lì, capito? Minchia, ho fatto la chiamata, mi hanno chiamato in 10. Vediamo se c'è Antonio. Ho fatto una chiamata a Marì, ma mi sono risposto in 50, sud, nord Italia, a tutte le matte. È un casino, insomma, guarda, non si capisce nulla, no? Quando è così a me neanche io, neanche chiamo. Avanti, Marco. Ma io passo però. Io oggi non ho attaccato nulla, né lineare, nulla, in realtà ho ascoltato il buco, proprio non ne avevo proprio voglia, mi. E poi ero stanco che sono già uscito oggi. Scappa, dai, bianco per me, dai, ci sentiamo dopo, io faccio un po' di collegamenti. Ma dove stai andando? Scendo stai? No, vado sul 45 un attimino, che mi diverto un po'. Fate mandare la QSL. Il camion li mandano, quello di, come si chiama? C'è una che fa la camionista, quella l'avevo sentita. Sidaretta si fa chiamare. Ah, sì, Simonetta Gallo. Sì, a quella ha detto, mandami la fotografia. Sì, la conosco, l'ho vista sul programma di Cosio. L'unico camion rosa con la scritta sigaretta, ne ha pochi di cose, di regali dentro, all'interno. Però almeno si è fatto un po' di pubblicità, si è fatto. Capa. Attenzione, mandi a Cartoffen! E no, chi è Italia? Avanti, avanti, a dove? Lui ci lavora sui i cosi, può avere a posto di fare le pizzerie, come fare la trattoria adesso, a me il camion si fermano e non gli posso dire niente, posso mangiare prima a mezzanotte, le due, sono arrivate le nutta. E da quando, Antonio? Da questa settimana siamo sempre lancioni, un'altra settimana abbiamo. Ho capito, abbiamo? Abbiamo un'altra settimana, 10 lancioni. E poi se tutto va bene li mettiamo gialli. E poi se ci vogliamo prendere per il culo passiamo un nuovo lancione, anzi russi direttamente. Così ci facciamo tutta l'estate fino a settembre. A me non apre manco la discoteca. E Breaton si attacca a puffa. Come di Breaton me la putti nuda, a me mi interessa ballare io, non Breatore. Sì, ma quello appena si aprono le discoteche, vai come viene qui in Sardegna. L'anno scorso ha perso 1,5 milioni, ha perso di euro, in una settimana. Ma chi c'è però, me non te lo volevo dire. A posto di aprire lui, se non lo aprisse, no? A Baghdad, lì in Iraq, a vedere quanto sarebbe durato, minimo una settimana. Scappa e ci hai fatto un altro massaggio e basta, se no i nobbi, uia, la prima arriva a Rudy. Ho visto a Micuri, vado con l'altra parecchia, Antonio, la signora come sta? Bene, sì. Aspetta, mi sono tornato per sentire quello di usciato, sono andato a recuperarlo. Antonio, la signora come sta? Bene, sì. E un po' così, allora, domani si vuole alzare, cioè alzare. Vuole uscire perché gli fa male la gamba, una. Da sedere fino a terra, tipo sciatti, capito? Ehi, ecco qua! In giro il palazzo, va a fare un po' di sole, là, diciamo. Piano piano, si fa una passeggiata. C'era qualcuno che vuole entrare, avanti? Eccomi qua, sono ritornato con questa. Ascolta, tu, ma la pizza non l'ha ordinata, al monte? No, ho ordinato i panini, pizza me l'ho mangiata ieri. Obelix l'ho presa. Ah, va benissimo, dai. Capriccio, no? Lì, stavo suonando, dai, ci sentiamo, che c'è il pizzaiolo, ciao. Ciao, dopo, ciao, tu. Avanti, Marco, sei lontano, Antonio, avanti. Il panino me lo sono fatto poco fa io, ci ho messo formaggio, coso, prosciutto, poi che ci ho messo, tanto formaggio, formaggini, in poco ci ho messo cipolline, funghi, nel piatto naturalmente. Almeno mi faccio la cena come si deve, come mi attira almeno vado in bagno veloce, faccio quello che comanda per la mia alza. Non si caghi addosso, uia, avanti che buon braccio, 10, ho sentito la chiamata, Quanto anni stai pompando, Antonio? Quanti... quanto c'è? 300? Ho 120, non lo so. Una cosa non c'è. Sto pilotando con come 4.000. Non so usare neanche il 3.009. L'altro, l'apparecchio grande ce l'ha coso, già lo sai, sì. E infatti cagna è sceso il fulmine e si è cribbato, adesso me lo sta sistemando. Sì. 9.15 stai arrivando e dove sei sassolo? Sei sassolo. Cosa si capisce? Avanti. Aspetta. Adesso non sono sassolo. Adesso sei sceso, ma due avanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E adesso va bene, dai. 9.10, 9.8, diciamo, 9.5, là. Adesso l'ho spento, era farlo scaldare almeno un paio d'ore. Adesso in questi giorni vado da Fusano, mi odio il finale di quello grande, quello da 600, la transistor, così glielo cambio e sono a posto. E andare su, Giulia. Vediamo, Marco? Marco sta mangiando come minimo. Sì, già fa bene, io sto aspettando che mi chiamano, vabbè. Arriverà a 8.30 la vista, anche ho le braccia fissi, ho le braccia proprio, cazzo, del registratore vibra tutto ogni tanto rispetto alle braccia. E vabbè, fatto voleva. Un abbraccio al Tonè, sino guai. Vabbè, fatto come ha fatto sì, glielo credo. Adesso sto mandando un video che ho fatto, mi. Con laser, guarda come è illuminato l'ingresso dei via Vada Basso. E adesso vediamo, con la riva. Guarda che se c'è qualcuno sto vendendo un tagliacchieppi a scoppio, è nuovo, ho usato poche volte, ma ormai io a scoppio l'ho tutta eliminata e sto dando. Se c'è qualcuno che serve il tagliacchieppi in campagna, lo sto vendendo. Ancora non è arrivato nulla, Antonio. Dunque me l'ho mandato, dovrebbe arrivarti fra poco senz'altro, perché la V è uscita, quindi evidentemente si entra la ombra, tu dentro a casa. Ehi, già lo sai dove sono io, mi è arrivato adesso, già lo sai, sono nel bunker, sto con il gioco, già lo sai, sto vedendo, vediamo, ecco qua, adesso. Una luce, ma è. Però forse fortissimo, la luminata a giorno. Sì, dovevo vedere le macchine qua. Quando vedevano i segnali stradali, cazzo. Si sono spaventati, cioè ci sono le lampadine. E una cosa che ha trovato un amico mio di. Nel cassonetto della Mondezza, via i Cinesi, capito? Ha trovato quello e due lampade proprio tutte le batterie cribbate, c'aveva il circuito stampato, il circuito da 220 all'alimentazione proprio con tutte le resistenze bruciate e un paio di condensatori. Quelle non sono riuscito a salvarle, ma la lampada quella frontale sì, quella piccolina. Quella sono riuscita a salvare, anche il coso, ho visto che funziona, gli ho messo l'alimentatorino da 6,5, perché cioè da 7,5 alimentato dal laser, e ho visto già funziona bene, quindi figura di tu. Sei andato in sicuro in gabbo, dai. Attenzione a chi vuole entrare, su di noi non c'è nessuno là. Ma controllo il segnale, Antonio, fammi una cortesia in questo passaggio. 9.25, sì, radio 5. La voglia. Ci arrivi bene, ci arrivi. E ok, un attimo mi mandato un passaggio. O se tu vuoi qualche altro, e che vede. Ah no, la collega è. Aspetta il chiudo. E scusa non si decolora, già va bene, dai. Andare avanti, Antonio. Qualche giorno te l'ho preso in macchina, attacchi l'attacco a di siga, vedi, te lo metti fuori davanti al cofano. E dico, sì, con laser. E così faccio circa un po' di gente. Sì, che puntato nel muro è una cosa allucinante. Io l'ho puntato giù in strada, ma è anche nel palazzo di fronte, devi vedere. Non è molto potente, però se fosse stato avrebbe avuto più volte guai, sarebbe stata una cosa allucinante, guarda. Tipo quel laser che usavano, ti ricordi la volta che usava la discoteca, quella che c'è via Milano, si puntava in alto, puntava, si vedeva, da Ussi si vedeva questa roba bianca. Sì, io ce l'ho già, la conosco perché vado a fare un trabacco in quella discoteca, che è chiusa. Già lavorava poco intanto, sì. Ma ora c'ho una fila io, e ne avevo una io e una presa Bacchise insieme, là. L'avevo pagata intorno alle 35-40 euro, una pila normale sempre, E tutto in metallo, tipo militare. E fa, ma tu non sai la luce che fa, io appunto in alto, in cielo, ma fa una luce proprio fortissima, tipo laser. È una luce bianca comunque, una luce bianca. Ma così forte, cioè, batterie di caricabile e tutto quanto. Ma non è forte, diciamo una pila militare, diciamo, là. E quella ce l'hanno i cinesi, dove stava l'altra volta che sono andato. Tu immaginati, io ho preso il monocula dai cinesi, però dai cinesi. Da questo tipo qua l'ho pagato 57 euro, ma dai cinesi l'ha preciso. L'ho pagato 15, ma va a far culo, ho detto. Quindi non è proprio mi fortuna più. Quando vado a per dire, vado prima dai cinesi a Sassari. Cioè se lo stesso modello lo rapida, allora e lì me lo prendo, rimane proprio appena entri lì a, come si chiama, sulla sinistra. Ci sono quelli piedi lì, ci sono. Ma fanno un bel luce a farlo. E non sei inculata, purtroppo bisogna stare attenti oggi. Oggi prima di fare qualcosa bisogna. Gli hanno fatto il giro prima, poi va a acquistare. C'è qualcuno che vuole entrare avanti sul 10? Pensiamo a chi vuole entrare sul 10, avanti. Oh, ogni tanto lo vedo una portante. Avanti, Antonio. Per pagazione, più che altro. Ho acceso poc'anzi, ti sto dicendo. Sono andato sul 23, c'è attore e altra gente. Non ti credo, non riuscivo a soltare attore. Arrivavo a 9.15, 9.20, a lui lo sorpassavo proprio, preso e ho cambiato perché intanto non capivi nulla proprio. E beh, quando c'è preparazione così ti crepa le persone. A parte che parlano in FM e quindi ti senti sotto, oppure quello che si manda laterale. È tutto pieno. Questi giorni meno male ti puoi fare a me fare propagazione. Tutti i tedeschi sono, qualche volta qualche polacco, ma la maggior parte sono tutti tedeschi. Dalla Germania, cosa del genere, arrivano forte, 9.20, 9.10. Tu sai di fare esatto, adesso mentre tu stai modulando io sentivo qualcosa di tedesco sotto fondo da te. Non stai portando appresso, figurati. Santiago 5 qua, in banda laterale. Figurati, oh yeah. Già, chissà quanto stanno sparando, figurati. Poco fa è stato uno è entrato. L'unico che sentivo è a me. Quando ho detto stazione Paolo Falcone, allora, mi ha risposto subito, quando ho detto che l'ho peloso, cazzo, se ne è fuggito. Già mi sono accorto, sì, l'ho fatto scappare. Chissà come non l'ha capito, lo dico. Ha fatto bestemmiando, non è minimo. No? L'ho fatto scappare, allora. Oh, qui a noi. Tua sorella sta a posto, sì? Per il momento sì, è tutto a posto. L'unico problema che ho la preoccupazione è per un cavolo di cosa, di meta di vaccino, hai capito? E devi farlo per forza, il discorso è quello, se non lo fate lo fanno fare. Ancora meno male Antonello non mi ha chiamato, Antonello Resole. Per quello che faccio lo voglio, se mi dice una cazzella che vai, e boh di Dio, dico vai. Il vaccino lì, il boccio del vino, e sono vaccinato. Sì. Ammazzo, già fai la mai. E lui ha già mangiato il panino. Ci hai dato la notte. Le notti è fatto. Allora, ha mangiato pure un metà bottiglia di birra. Sì, guarda, io sono già arrivato a seduta, dai. Boh, faccio questa che è bella fresca, croccante. Alla faccia di gambi gommari. Ma di guio, avanti anche noi. E ti piaga lo guro. C'è anche cosa, ho comprato il vino mio per fare il pollo l'altro giorno e c'è anche quello, c'ho. Già, va bene, dai. Avanti, signor Antonio. Cazzo, che ci vuole amare se vi aggare un guru? Antonio. No. Sì, a tu e noi. Avanti, signor Antonello. Cioè, è così, Antonio, già è così. Stamattina quando sono entrato mi sono uscito, cioè mi sono svegliato veloce. Ho mangiato una brioche di quelle dolci che vende lo spin. Ho bevuto l'acqua e sono andato in farmacia, cazzo, ma sono trovato tutta la mattina, mi sentivo, cazzo, tutto strano mi sentivo. Finché non sono arrivato, ho detto, dammi un peroncino, cazzo, era più congelato di me quello, cazzo. Da quando non stavo più vendendo birra, ragazzi, quei peroncini sono come se ce li mettessero dentro al ghiaccio, ragazzi. Devi aspettare almeno un quarto d'ora per poterlo bere. Sei ghiacciato, sta attento, ti fa male, sei ghiacciato. Avanti, Antonio, cosa stai dicendo? Avanti, chi è? Ecco, su bip bip bip. Avanti, capisciam. Andare. Babbo Natale, non bava tu. Stava cercando Italia, avevo capito che... Poi cosa ha detto, che non l'ha già compreso. Vai, a cogli cazzo, vai. Avanti, che è? Attenzione, stazione Perizoma chiama. Per carità. Tanti anni fa c'era il periodo che... c'era la scansione in pratica dei cosi della propagazione, per dire la mattina presto incominciavano i francesi dalle 7 fino alle 9, poi subentravano gli spagnoli un paio d'ore e dopodiché tutto quanto italiani fino alle 7, poi dalle 7 poi cominciavano tedeschi, polacchi, anzi gli americani entravano solamente in inverno perché non c'era verso d'estate, vi sentite? Arrivavano alle 9:20, adesso è un periodo che non lo sento più, ma prima gli americani erano una cosa allucinante, 9:20, 9:30, una radio ci avevano, del che tu se ne fregavano. Sai, scende a bomba, ci discende. Con quel gas accendi che li canta, lì sopra, 1000-2000 watt usavano. Adesso che da parecchio tempo non sento più niente, figurati, è un bel tempo che non li sento più, la propagazione è proprio cambiata. Antonio, come segnale adesso? Prova. Guarda questo passaggio, 1, 2, 3, prova, avanti. 9:20, radio 5 amplificata. Va benissimo, ora aspetta che stacco la zapparizia, se no ti manda, è ok. Avanti, è tu. Capo, pure a me sei quasi 9:20. Allora, va benissimo, ora. Ok, attenzione che vuole entrare su 10, nessuno. Avanti, è tu. Capo. Cacaggetto a pompare. Io sto pompando, io sono liscio. Io ho la coletti che sta pompando e basta. Cazzo, devi pompare, devi andare tutto a 200 watt ci devi avere sotto. Io sono liscio, io pompo con la coletti. Cosa pompi tu? Angelo Poletti, 4. Quando la bevi ti si arretti? Basta, che ti sbagli, tu. Ah sì, a noi. Eia. Lì già esce bene quell'apparecchio. Già ho capito qual è. Quello a voglia 30 watt ci arriva giusto e giusto. Se non mi ricordo, avevo 30 o 50 watt. Non mi ricordo bene adesso. Però già sta funzionando perfetto. C'è la radio allucinante, forte. Già va bene, eh. Antonio, se già mangiato, un po' da qua, non ho già mangiato nulla. Ancora ci ho chiamato, boh, non so se sono chiamati, allora ti alzo. Sicuramente insomma niente, insomma. Oh, che c'è un riporto di male messaggio. No, non so se è pronto. Sono Garibendi, prima Saboretti, Marco Marretti, prima con mi arretto. Qualche giorno già è capitato, vabbè, non vedete mai, sono scendo giù. A certo studico, ma se trova che se prendo il giro di prima delle antenne paraboliche, antenne di TV, ti faccio vedere che Antonio gli faccio portare la bombola. Hai capito? Appena apre quella della porta gli faccio scendere la bombola in terra. Hai teso il tuo consiglio di darmi. E la tua sorte che noi siamo anche mezzo casinati. Adesso la prova giugno passa, non va appalto, passa e poi ci metteranno in riga come gli orari. Abbiamo un orario, siamo incasinati, capito? Poi io faccio diversi orari. Il lunedì faccio la plastica e martedì sono lo spazzamento, tenatorico. Mercoledì sono sempre sul camion, giovedì sono al centro storico, venerdì e sabato sono sul camion. E il fatto è che fino a questa roba di Covid, anziché entrare alle 5, si sta facendo entrare alle 6. 6 a gruppi, e da un gruppo alle 6, 6 un quarto, 6 e mezzo e 7. Non avere troppo affollamento, capito? È un casino. Speriamo che al primo giugno ci faranno entrare alle 5 almeno. Usciamo prima e ci possiamo trovare a bere un bel bicchiere di birra, anche ci vuole male, Antonio, avanti. Speriamo che aprino, ma sarà difficile. Ci hanno fatto parlare quella, quando siamo stati un mese in bianco, che stavamo benissimo, fa culo. 30 giorni di cosa, stavamo come pasciata, altro che come l'hanno fatto su non avevo preso niente, visto? Se ne sono andati tutti in piazza, tutti bevuti, e non avevano serato tutto, non avevano proprio chiuso niente, invece qua immediatamente la Sardegna chiusa. Non mi avvisate che è una questione politica, se c'è bisogno di fare un guro. Chissà se siamo a posto, è tutta gente del paese. Siamo credo, nel paese adesso si fanno le mucchiate, si fanno ammazza maiale, se vanno in 20, io c'ho una genoia, ma com'è, lavorando sempre nel tabacco che faccio io. L'altro giorno era in un posto e c'è un minimo di 40 persone. Senza mascherina, senza niente, proprio tranquillo e sereno, capito? Non si lamentano. È bello che noi sardi ci abbiamo i giri migliori, ragazzi, hai visto? Noi pratica il Covid, secondo me potevamo neanche non averlo. Il problema è che purtroppo quando vanno si fanno il giro del male, la gente è abituata male, dalla mattina presto, specialmente i pastori che vanno da qui all'altro, tacca, io va bene questa, voglio quell'altro, cominciamo a mangiare le salsicce, con la gente, quindi da 1, 4 a 5, da 5 a 10, e quindi trovano magari, quando debole ci passano tutti. E se c'è un altro che ci mette, l'ha detto ieri proprio, lui ama come il servizio, sempre il servizio che faccio io, e ama come è andato lui e il collega, avevo scelto una campagna da quella della roba, e c'erano queste persone qui che stavano a mangiare maiale, ma c'era almeno una quarantina di persone, alle 7 di mattina, tagliando, affettando prosciutto, salsiccia, formaggio, e bevendo vino e birra, alle 7 di mangiare, di una di me. Lo so, va benissimo, una cosa bellissima così, va bene, ma siamo incasinati, mai come colpa di loro, e noi qua sa, sentiamo bene, tutte le persone sono ricoverate, gente del paese, noi sa, hai capito, noi sa, siamo a posto, guarda tu. Un po' di cazzate, vi c'ho furo. Recuperati, rimane in un campo, vani, vedi. E poi lo sai, la mangalaia, e sai, il giro di sopra ci abbiamo tra mascherine, disinfettante e compagni, guarda, i vaccini, siamo quasi nel mese, la mangalaia, allora. Avanti, chi vuole fare su 10, cambio. Sei tutto trudiente, avanti. Oh, ich hab ja sogar schon die Schlüsselbündchen mit dem Bus mitgehabt. Ho capito, ma fatelo davanti, Antone. Da hab ich extra noch was erlebt. Tedesco. Io ho capito il tedesco, ho capito. Auguro mi piace. Attento, my friend, Germany, Scucci Station, Italia, Station Pelota. Ti faccio una garotta. In tre, ho risposto blu. Station Pelota, Italia, chiama. Cosa ne dai? Cosa bella, oh Iulia, beh signori, questo passaggio l'ha profitto, noi stiamo quasi mezzo chiamando, vedo il cellulare, sta quasi mezzo squillando. Ciao Torella, ben sentito, saluto la signora, salve a tutti anche tuo fratello, la sorella. Ciao Tom, ben sentito, saluto di qua. Ci sentiamo, saluto tutto il signore Scottoni. Ciao, ci sentiamo domani. Anche me ti basta di Luca. Arriva 9, quasi 7 a 9, tu sei 9:10. Ciao Maria, a domani. Ci sentiamo domani sera. Avanti a tu. Ecco, ciao Antonio Maria, ci risentiamo. Ok. Ciao Antonio, a domani, ciao. Cosa hai detto Antonella? Andare là, se mi ricordo te lo dico. Papa, chi è che chiama Italy? Avanti! Sì, andate voi! Ha detto di buona ziota, ha detto me! Ziota niente, cacciuffi! E noi vediamo che siamo mani a cacciuffa, siamo! Stavo dicendo che su 4 la sera ci sono i cosi, c'è un ponte ripetitore Papagallo si chiama. Di solito si eccita quando schiacci su 4 in FM. Ah, io che lo Papagallo riconosce quando ero minore. Sì, in pratica ti senti la voce tua, però non so di dove sia la verità, se è tedesco, se è polacco, boh. Non lo so. Scheisse. La vedete in mezzo. Sporchi ha detto. Vai, manco di catena. Guarda, c'è a casa un guru, ma ne ha cazzofa. Tu, come ti senti, coglione? In tedesco, tu lo sai. Oh, la verità no. Non l'ho mai detto. Tu, Scheisse. Vai non a mare, a te che ti tribuono in chiave. Certo, merda, ci ha detto. Sono in due, stavo parlando. Tu, come di tua sassa, sei di una massa di Buccarotti. Ma vedi il fianco di guru e non si può trovare da vicino. Marco di catena. Ah, non è una mara, va. Ah. Cacciù, ciù, cacciù, ciù, cacciù. Tu mangia cartofen, noi mangia cartofa. Il mio buongiorno è andato a me, ha fatto ciucuccio, ha fatto. Dai, ho fatto già in stazione. Aspetta, ti faccio una cosa, ti faccio vedere. Prima ti faccio il video. E cosa devi fare? La barnacchia. Cosa mangi? Ho cioccolato, mangi. Passa a mangiare le gocciucce, dici mangiare. Cosa vai, l'aria di Drudi? Facci brazzo, battato. Arrivato te, sì. Poco mangio e prendi. E tu guarda, aspetta, sarà che arriva l'aggeggio. Sta girando, si è stato scaricato il video. Non ci hai che c'è un video strano, eh? No, è un video porno, non ti preoccupare. Ah, oh, hai cominciato a fare qualcosa a tu, me. A mano, no? A mano sì, l'ho fatto, però non è quello che pensi tu, aspetta. Dai, di memorizzarlo, non è come si chiama che sta arrivando. Non ci posso credere, hai fatto il video pornografico. No, tranquillo, sono così macco. Cazzo devo dare galera. Lo sai che adesso controllano anche WhatsApp e controllano. C'è un video cosa è? Ma cosa controlla WhatsApp e quindi là? Aspetta, non ti ancora. Ci manca poco, aspetta. Grazie. Vai, quasi ci siamo. Io cerco il congiunto. No, stavo girando. Ecco, adesso è arrivato. Ecco qua, faccia vedere. Ma tu hai, quali sono le cose che si usano in discoteca a me? Lo so. E la lunghezza non l'avevo trovato. Però io ieri notte, non ieri, avanti ieri. Aspetta che, ecco. Avanti ieri l'ho puntato giù. E ti faccio vedere cosa è uscito fuori. Guarda il casino che ho combinato. Ah, lo prendi? Devo chiedere a quello che me l'ha dato, se lo vende. Perché me l'ha portato un amico suo, me l'ha portato. Dice, allora dice, guarda, si può aggiustare, si funziona. C'ho due pile, eccetera, eccetera. Guarda che puntato in strada. No, è un laser! Non lo vedi così! I pali del come si chiama? Come si illuminano? Sembra che ci siano a parire! Lo so, lo conosco quel tipo di laser, è una discoteca! E cappello è che non è tanto forte, perché se fosse arrivato fino alla cosa, alla curite e oltre, sarebbe stato un bisù sarebbe stato. Cioè, a parte se non vende, 7,5 volts funziona, quindi immaginati tu. Adesso buscarmi se esco a trovarlo quei LED che usano le macchine americane, quello che si illuminano in blu, che sono tipo psichedelici che si piazzano davanti per metterlo in una macchina. Mi ha portato queste due cose, poi questa base, una lamparina, dice controlla, dice mettili a posto, dice me l'ha dato questo amico mio, mi ha detto, e vedete ha trovato dentro qualche cassone di immondezza, l'ha fatto. È un peccato quello lì. Non so che peccato, funziona che bene, quello messo in dentro un bar per dire, fai festa, cioè lo accendi, quello va anche con la musica, non so altro, capito? C'è un sensore dentro e va tempo di musica. Dimmi se lo sto vendendo. E già glielo chiedo, però davvero glielo chiedo. Che bello, mi piace. Immagini che io l'ho fatto da sopra la mia strada. Hai visto come si è illuminato il coso? È allucinante. L'ho acceso qua dentro è bello per quello. Quando fai qualche festa, qui accendi un rivisto, lo stereo e sei andenti. Già lo so, ma io le faccio queste cose, quindi mi sarebbe piaciuto averlo. Il laser stavo cercando pure. E già glielo chiedevo cosa fa Pietro. Adesso domani rifinisco il carico la batteria della pila, la pila va bene, ho visto che carica, tiene la carica. E la carico bene, la carico, c'è con l'alimentatorino. E così poi ti faccio sapere se quello lo vende, quella cosa lì se lo faccio avere. Tanto le batterie sono da buttare, cioè quelle pile sono da buttare. Ci sono quelle batterie rettangolari nere solo, quelle immediatamente prendono fuoco dopo un po' di tempo, che a forza di caricarle una, due volte, tre volte, quattro, cinque, salta l'orale e ti ritorna la corrente indietro e ti brucia tutto il circuito, capito? Solo i dati si salvano. Lo so. Vabbè, vediamo. Ma vabbè, con l'alimentatore è vaffero. Io sto usando con l'alimentatore. L'alimentatore lo attacco a 100 sigari e... In pratica lo attacco a 100 sigari e... È uno di quelli per telefonino cellulare. Modello vecchio. Capito? Dovrebbe essere intorno ai 6 volts. Quindi è stato alimentato. Appena appena. E funziona benissimo. Già, va bene, là. Vediamo un po' come funziona sto coso, se mi interessa, quanto ne vuole, se mi interessa già glielo prendo. E vabbè, se ne basta che guardo a coso, non ci vuole molto, mi faccio la fotografia. Entro lì a fianco a Città Mercato, dove sono quei cinesi, ti dico il pezzo quando viene, nuovo, il catturato e tutto. Se ti conviene più magari di pigliare la seconda mano, tu lo pigli nuovo, e se la prendi in conto, tanto penso che costerà 10-15 euro, non penso che costi 40-50 euro, cioè, sono giocattoli lì. Quello compa. Hey. non so che pensa, se la colpa che può fare, se l'è buttato giù e se mi lava il coso, la strada, figurati. Cosa che dove mettete i mobili si illumina un palazzo, il lumine, capito? Le conoscete queste mobili? Sì, già le conosco, già. C'è quello che ti fa tutte le stelle, già l'hai visto quando vendevano a Natale. E la stessa cosa all'ASE, tu lo metti nel giardino e lo butti nel palazzo e sembra che siano le stelle sopra. Cucù. Avanti Marco. Sapete che mi sono addormentato. Mi sono andato giusto per salutare, mi accendo la TV. Ero coicato qua nel divano, mentre ero con voi che c'era Marino anche. Lumiggio, così, a piombo. E quindi c'è Antonello, Marino c'è ancora, Bombolo, eccetera. Sto facendo colazione, che cosa ti viene dopo la blocco quando mangi latte? Sì, dopo mangiato c'è un afflusso di sangue allo stomaco e proprio mi viene di questo sonno che non ti dico, e quindi dai, buon proseguimento di serata, io mi accendo la TV e mi sbrago del tutto. Ciao, un bacione. D'accordo, ciao Marco, ci sentiamo. Mio Antone, ti sto mandando il video, ti sto mandando. E sono qua. Fatto. Come si muovono? Arrivato ti è? Sì, sì. È arrivato, è arrivato. E qua quelli sono laser professionali però. Poi sono le luci, la terra, quelli che... C'è Bellino. Cosa c'ha la cuvetta ed effetto fumo, cazzo? Quella lì l'ha acceso, non si va a fare un culo quando l'ha acceso dentro al bar, cazzo, niente, tu sei tutto fuori di testa. Poi ha preso e è arrivato questo tipo qui con la, te dico, con gli sticchi della cannabis che erano i cosi negri, cazzo, ne ha messo 10 dentro la cosa della birra, la bottiglia della birra, ha acceso tutti, cazzo. Un fumo, non si capiva più una fanculo, io dico, ma fanculo te, non so cazzo di cosa, pigliate i piedi, e me ne sono uscito fuori, e te ce la faccio a togliere la camera senza bere, io detto. Anch'io! Ma c'è roba sconvoltina, una cosa in pieno l'ha acceso, me. Immaginati, me l'ha messo davanti al tavolino, aiutalo, brinda, cazzo brindi, cazzo no, questo fa, con questo fumetto mi sta fumicando a me, io ho detto. La macchina del fumo c'è anche, chi sa già da ne fa di casino? C'è anche la macchina del fumo lui, infatti, vabbè, poi mi si è incendiato il mixer, chissà cosa cavolo combinato, l'ho dato a me, quando l'ho smontato c'erano 7 diodi bruciati, condensatori, mi sono provato a ripararlo, non c'era nulla da fare, dopo il stampato. La verità non so se funziona, ma vado accendendo, mi ha fatto la toccata, gli tu va, ascolta, e cosa non sono riuscito a aggiustare, ha impazzito nel modenzaio, infatti non è che tomato la vita, un mixer, l'unica cosa che mi è rimasto è il mixer, ho stampato i potenziometri, tutti i led, vabbè, quindi me li conservo, nel caso mi servono, devo staccarne uno e prendo lo stacco, ho preso anche i potenziometri, quelli che ci sono, che fanno, sono un doppio senso, capito, sinistra, destra fanno, quindi. Non è che gli è arrivata un'alimentazione troppo alta, no? Boh, non so cosa abbiano combinato loro, capito, ho controllato quanto costava 60 euro il mixer. Il mio costa 30 euro. No, ma questa è una grande. C'è l'attacco delle cose, dei microfoni, ecco. Una volta si poteva usare, ormai col Covid non la usi. Si può attaccare quello, c'hai. Faceva le feste dentro al bar, capito? Stavano fino a mezzanotte a festeggiare, e dopo che niente è fusa fuori. Vabbè, non lo so, le cose bisogna saperle usare, non è così, no. Il mio mi sembra che ho pagato 120 euro, anche di più. Sì, vabbè, a parte gli acerni di pelo, di lamenta. Oramai le feste, no? Ce le sogniamo, a quella fare feste così, come una volta, organizzare per dire, dietro cucinava, c'era il caminetto, c'è bistecche e cose del genere, poi dentro la bara bere la birra. Fino a mezzanotte, tutti di uno sono andato a cotto a casa. Non possiamo fare tutta la vita così, no? Penso che fra un po' di tempo libereranno tutto. Non potremmo trattare la vita così, no? Spero di no. Spero di no. Ma non... Non sono sicuro neanche col vaccino, hai capito? L'ho già detto, dice, sì, i vaccini ce li stiamo facendo a tutti. Uno, due, richiamo e cose del genere, ma... Dice... Secondo come dice, fra due anni dobbiamo nuovo rifarli, capito? Perché non è così facile estinguere questa cosa qua, capito? Si può sempre riproporre, il discorso è quello. Fanculo i cinesi quando hanno usato questo carbo di cose, grazie a tu. Tutto è partito da loro qua, se no sappiamo bene. Non si butta una vita così, una cosa a gatto, poi alla fine il contagio ci vuole per togliere questa malattia, se non ci contagiamo, ui, ma poi molti non se ne accorgono nemmeno, no. Non si sono mai accorti di averla pure. Sì, vabbè, l'abbiamo avuta a dicembre per esattezza, perché io me ne sono accorto quando mi è arrivata l'influenza a me, non riuscivo a cavarne i piedi, usavo di tutto, tachipirina, spirito, eccetera, eccetera, gli ho detto, dottore, io non so come fare, non mi cala la febbre, c'ho questa tosse che non riesco a cavare i piedi, dice, prendi due tachipirine e lo spirito, due tachipirine e lo spirito, ho fatto così per 4-5 giorni, poi non ce l'ho fatta più, io non mi reggo in piedi, ho detto, faccia una cosa, si tenga questa medicina qui, già su io non ho cosa fare. Sono andato al supermercato, ho fatto come facevano gli anziani. Ho cenato, mi sono bevuto la bottiglia di sudante, ho sudato la notte dentro al letto, non facevo più niente, manco la tosse. Condor? Sta dormendo. Scappa. Ma nel buco da muro ti chiedo. Chi c'è? Allora, l'unico mezzo era quello. Ti bevi un po' di vino, prendi e ti metti dentro al letto. Anzi, vabbè, meglio vino caldo per esattezza. Se lo bevi, non bollente ma caldo, e ti colichi immediatamente dentro al letto. Gli anziani facevano così, non esisteva prima il broncherolo e l'antigrippe, eccetera, eccetera. L'unica cosa fosse la supposta per il culo, quella di carne. Cazzo, supposta per il culo? Io direi, stavo prima, ma... quella prima. No, qui c'è un'altra questione, però, Ehi, già su di lo stesso, la buglia che ti basta. Ma voi non vorrei dire, ma cazzo accusato, però, Ah, quello sì, quello già è vero. Oh, yeah. Per carità, ormai sono arrivato a... Hai 60 anni, va vai, la biglia in culo, la biglia. Altri 10. E piglio la pensione quella normale. E sono apposta. Legale Riccio. E manco la fai ancora. Ah, dezza. Ehi. E ci metto di stecchini la mattina quando mi alzo. Addirittura. E poi lo metto in frigo. Che cosa fai? Non mi dico la roba a te, la roba a danno. Non so quello che ti forro. Sì. Chi è che vuole entrare avanti? Allora vai, bucci grosso. E te sono arrivato. No, qualcuno ha acceso qualche fuoco. Sento il fumo, evidentemente sta bruciando legna a quest'ora. Per non farsi trovare. Ehi, arrucendi sarà. Alleluia. Tu vedrai la ziminea, però non andava. E infatti, no, già mi sono già preparato il corso, c'è la piastra elettrica, c'ho. Adesso domani mi sistemo il tavolo, bene, il tavolo bianco. Dopodiché, appena inizia la... che comincia il pesce a cambiare il prezzo, che costa di meno, sardine e cose del genere, mi metto a cucinare sardine. Sardine, eccetera, eccetera. Non frega niente. Sardine, zirri, quello che c'è in maggio. La canna ha le palle piene, ho mangiato anche troppo quest'inverno. Mi piace un bel pesce, mi piace. Sardine, zirri, poi l'altro perché lo sgombro. Capito? Però mi toglie il colesterolo, mi toglie. E sono a posto. Una bella baciata di Zarretta Russo. Già mi era piaciuto pure a me. E troppo costa ancora. L'altra volta c'erano le sardine davvero, le sardine davvero, io te lo vedo. Ho preso due sgombri, ho pagati 7 euro, ho pagati. Giusti, giusti. Non è ancora tempo di periodo. Scendo giù al centro storico lì, mi prendo il tram, la 25, scendo davanti a come si chiama, verso le 11. 11 mezzogiorno e comincia il pesce a cambiare prezzo. Perché se scendi presto tu la fai pagare a prezzo pieno, invece quando scendi 11 mezzogiorno, arrivo lì, voglio dire che io se lo va a questo prezzo qui, capite, fare uno sconto, basta che te lo fai fuori. Sì, no, già è vero già. Ma mi piace, io già c'ho curati senza mangiarmi, di dare Tarruccio, cioè a Buonarezzo, Lo so, infatti, no, io il pesce lo faccio fuori, metto un terrazzino, metto la piastra sopra al tavolo, la piastra elettrica, lo cucino, al limite se c'è caldo, se ci si 28-29 gradi per non incendiarmi, cazzo, il cervello, ci metto l'ombrellone, quello che ho io dal bar, che è grande. E mi metto a cucinare il pesce, gli faccio la, come si chiama, gli metto l'acqua, prezzemolo, l'aglio, il peperoncino non è buono, se no guai con i denti. Ciao, buonanotte. Ciao. Ma come ci devo andare a Zarretto? Io so che era, lo chiamo a fare Zarretto, in via Grazzaretta, sempre nel bar lì, quindi nel bar che c'era di fronte a Niccolino. Da Gianfranco? No, non l'ho conosciuto a quello. Ogni tanto per la cosa, vero, che è un cibi che frequenta lì, invece va Pascoli che c'ha con la motoretta, con lo scooter piccolino per gli invalidi. Adesso mi ricordo il nominativo, come si chiama. Per la lugna e tanto e basta, poi... Non ho più visto nessuno, sono bene che non scendo al centro storico, da quando è diventato quasi un troiaio lì in via, in corso Vittorio Emanuele, che si è attuffato tra loro, che non ti puoi filare, cazzo, hai visto? Cazzo, è che l'hanno preso a cazzo alla buti buti a quello scemo, se no sono cazzo le gambe, le mani da prima e lasciato in terra, se tranquillo e avessi scritto una scritta, questo è quello che ha molestato tre ragazze, mettetecelo dentro il forno elettrico. Io mi attacco di lui voce. Ah sai, da voi chi vede, lo sai che niente fuori di gabbo. Quattro zinchisci che ti fai barrare un gabbo. Tanto la giustizia cosa li fate? Il numero è torravura. Sì, adesso ne farà sei mesi che quello che è, eccetera, eccetera, poi dopo con il nuovo fuori, non ti preoccupare. Quindi, cioè sono un bel che sono esauriti di quelli lì. Ormai è tutto, mezzo centro storico siamo preso gli nigeriani come andavano loro. Prostituzione, spaccio di droga, eccetera, eccetera, prima non era così. Prima comandava questa Sarese, adesso hanno preso il sopravvento perché la colpa era a quelli che hanno le case in affitto. Capito? Preferiscono affittare a questi negri. Noi ci abbiamo messo la scritta a cazzo, a fuori negri, qua non si affitta nulla, solo Sarese e basta. Invece pure di fregare, di affittare in nero, capito? La affittano a loro e se ne sbattono le balle, non chiedono neanche nulla, non gli chiedono se stanno lavorando, che lavoro fa, nulla, non gliene fate nulla. Ormai è tutta gente senza scrupoli qua a Sassari, capito? Con la crisi che c'è, la affitterebbe anche così, ti posso dire, a qualche marziano. No, che noi siamo razzisti, non si può fare queste cose. Ma carità, come ti trattare il gas, il fiago, ma non posso. Perché cucinano riso con quello, riso con quell'altro. Anche i brasiliani cucinano riso con un sacco di spezie, cosa del genere, quindi senti aglio, la crepare e poi tutto il resto, capito? Loro mangiano con la roba lì, non è che mangiano altro, carne non le possono mangiare, pesce non lo so se le mangiano in verità perché non l'ho mai chiesto, però... Sì, lo mangiano, per me sono proprio benghinosi. Ho visto le cose, c'è proprio binghinose, so. Già ti chiamano anche per la bomba da qualcuno, sì. Così non si può entrare in casa, mamma mia. Io lasci fuori la bombola, fuori di casa, innanzi, dammi di là, vaffanculo, ma quel resto mi porti, gli torni, ha già pagato miei, ma il resto domani mattina te lo porto. Ma quello, il problema ragazzi che non sono niente binghinosa, no, non si lava proprio. Ehi, purtroppo ce l'abbiamo, ce la dobbiamo tenere. Lì la sindaco, hai capito? Siccome noi avevamo terreni pieni di pomodori in via del produttore, se quindi gli facciamo fare la raccolta dei pomodori, a meno che li avessi messi a tagliare l'erba in via del produttore, sa gratis, ti avrebbe dato un cespugliatore, un coso, e avrebbero pulito tutte le campagne. Ma poi cosa avete? Siamo bisogno italiano, c'è stato travaglio, non vanno mai. Sono tutti quelli che l'hanno fatto venire qui in Italia, rimettono lì a prendere pomodori, metterceli in cassetta, eccetera, eccetera, li danno due al giorno, fanno più di 12 ore e già li conviene, capito, proprietari dei terrieri. La colpa nostra che abbiamo fatto venire qua. Poi abitava a metà le campane, cose del genere. Vabbè, adesso ci avevamo messi a Sassari, sono fortunati. Almeno stanno in quelle dove c'era la questura, poi dove c'è quell'albergo, hanno fatto una specie di albergo, prima era un coso di agri, era lì, c'era un negozio con gli uffici. Quindi, vanno bene quelli che c'erano i primi che sono entrati a Sassari, che erano qualche nigeriano, qualcuno del Senegal, non c'era nessun problema, erano tutti amici, quando li vedevi ti divertivi, scherzavi, non c'era nessun, bevevano insieme a te per dire, adesso non si possono, ormai anche loro hanno paura, capito, di uscire, cioè, se usciamo ci addruffiamo, quindi a un certo punto rimaniamo in casa. schiappa, ah vai, quindi la bucci grosso, in banda laterale, in FM. No, in banda laterale, in banda laterale. Io. Beh, adesso mi sposto un attimo, là, ci sentiamo fra un poco. Esatto, ma mi sa che io chiudo. Ciao Antonio, ciao, ci sentiamo. E a domani, ciao ciao, ci sentiamo. Sono le cose,